Allora, benvenute, benvenuti a questo primo incontro della rassegna sulla montagna analoga, che è nata dall'idea di creare degli incontri che potessero essere un po' di sensibilizzazione sulla montagna, perché ogni mese... Puntualità. Facciamo un passeggio sociale e nell'ottica di creare un po' una consapevolezza sulla montagna abbiamo pensato che potesse essere utile o interessante comunque dare un po' più di consapevolezza su cosa vuol dire passeggiare in montagna, vivere la montagna, e quindi abbiamo pensato di invitare persone non necessariamente esperte ma appassionate che ci raccontassero la loro esperienza e la loro passione. Questo. Poi allegato a questo ogni mese daremo un consiglio di lettura nell'ottica di creare anche un gruppo di lettura sulla montagna, e il libro di ogni mese verrà discusso durante il passeggio sociale e niente, quindi Enrico è il nostro primo ospite che darà il nome alla rassegna. Bravo, io non dici niente adesso, magari dopo non so, no. Anche niente, no, benissimo. Così. Ok. In fondo mi sento, no? Perché non vorrei che ci fosse troppa gente che non... Che rumoreggia. No, allora, questa qua dovrebbe essere, mi hanno detto, l'immagine così, di presentazione della rassegna. Guardatela bene perché poi ne parleremo. Già mi hanno detto, ma questa è una rassegna sulla montagna e qui c'è una nave, cosa vuol dire? Sì, però c'è anche questa montagna, e ne parleremo ancora. Allora, perché montagna analoga? Spero che lo scopriremo. E tra l'altro, quando ho preparato questa presentazione, temevo che ci fosse una reazione negativa sia sul titolo che sui contenuti. Invece Exalgene ha voluto fare il titolo della rassegna, ne sono molto fiero, ma sostanzialmente il motivo per cui mi è venuto in mente questa qualificazione di montagna, i motivi sono due. Uno lo scopriamo alla fine. E il primo invece è che per un motivo che poi vi dirò, questa presentazione, questa chiacchierata è piena di connessioni, di analogie, di voli pindarici, di liaison tra una cosa e l'altra, diciamo di parallelismi significativi e di relazioni simili tra tanti aspetti diversi, sempre in qualche modo legati alla montagna o a quello che mi frullava per la testa nel momento in cui ho pensato a questa cosa. Tra l'altro anche oggi, rileggendo gli appunti, mi sono venute in mente altre 150-200 connessioni, di cui però vi tengo assolutamente indenni, perché sennò non finiamo più. Allora, perché a questo punto vi devo dire perché sono arrivato alla montagna analoga? Perché, come giustamente vi diceva Laura poco fa, questo dovrebbe essere un intervento di presentazione di un percorso per i vostri passeggi sociali. Allora, quando Giovanni me l'ha chiesto, dici qualche cosa sui nostri passeggi sociali, io ho detto, ma io non so proprio niente dei vostri passeggi sociali. Cioè delle zone in cui voi andate a camminare io sono abbastanza inesperto, potrei parlarvi per sì, molto di più delle Dolomiti o delle Alpi occidentali, ma esattamente le montagne della Lombardia, che sono quelle che voi raggiungete di solito per i passeggi sociali, io sono abbastanza ignaro. Allora ho detto, qua devo allungare il brodo, devo metterci dentro qualche cosa che vada oltre le montagne della Lombardia. E un'altra cosa che devo dire è perché sono qua. Il motivo è un evidente familismo. Non lo sottolineo più. Un'analogia. Sì, un'analogia. Diciamo un'analogia. Sono un esempio di familismo. E se dovessi presentarmi rifacendomi a questa frase di Dino, a questa risposta di Dino Buzzati, una volta gli è stato chiesto, si dice, perché io non l'ho mai letto da nessuna parte, però me l'hanno riferito, ma ti consideri di più uno scrittore, un pittore o un alpinista? E lui ha detto, guarda, se dovessi definirmi mi definirei come pittore. E lui faceva di mestiere lo scrittore e l'alpinista per passione. E quello che posso dire io è che se mi facessero la stessa domanda io direi, no, io mi considero purtroppo un ingegnere. Sono un appassionato di letteratura e un appassionato di montagna, ma purtroppo sono un ingegnere. Tra l'altro la mia specialità sono le gallerie che hanno a che fare con le montagne e con le rocce che le costituiscono. E giusto per farvi capire qual è il mio rapporto passato e attuale con la montagna, vi leggo una poesia che ho scritto un po' di tempo fa, di cui mi assumo la responsabilità leggendola. Ci saranno delle altre poesie che però non leggo io, perché sono un pessimo lettore anche di me stesso, però questa la leggo io per appunto farmene completamente carico. Spiacente, amate dolomie, plastici calcari, sontuosi graniti e alpini gneiss, pareti mozzafiato, pure se rose dal tempo, geometrie nette, valli regolari, non sono come voi. L'ho capito guardando quei contrafforti fragili, innevati dell'Appennino, illuminati dal sole, che mi hanno visto ragazzo quando s'assorbono le forme. Le mie sono oggi vallecole contorte, morfologie incomprensibili, tenere rocce sgretolate, cime accessibili, che unghiate di pioggia talvolta graffiano con molli frane disastrose. Passiamo subito, dimenticandoci quello che vi ho appena letto, al primo intorno, al primo ambito che potrebbe essere un suggerimento per il vostro passeggio sociale, ed è un intorno abbastanza ridotto che sta a est del lago, del braccio del lago di Como, lago di Lecco, che è bordato dalla Grigna, dove penso che voi abbiate già camminato, dai piani Resinelli, dalle Corna di Medale, e subito verso est troviamo il paese di Pasturo e il paese di Barzio. Allora, queste sono zone che guarda caso un pochettino conosco. Cominciamo dalle Corna di Medale, dove c'è una via di Cassin che lui ha scalato, vi dico subito quando aveva 22 anni, nel 1931. È una delle prime sue vie di sesto grado. Le Corna di Medale sono proprio sopra Lecco, incombono su Lecco, ma al di là di questa via, le Corna di Medale sono piene di vie, quella di Cassino è una via storica, ma ci sono anche delle vie moderne, ma c'è anche una ferrata che io penso sia percorribile, non l'ho mai fatta, ma è percorribile, diciamo con i normali mezzi di una persona mediamente capace di andare in montagna. E la cosa bella delle Corna di Medale sono che c'è un panorama mozzafiato su Lecco e sull'ultima parte del lago. E, piani di Resinelli invece, o Pian di Resinelli, è l'abitazione di Cassin fino alla morte che è avvenuta quando lui aveva 100 anni, quindi un alpinista estremamente longevo, a differenza di quello che si dice a volte degli alpinisti, che muoiono giovani per motivi evidenti. Pasturo è la casa di vacanze della poetessa Antonia Pozzi, e Barzio è un paese che sta davanti a Pasturo, dove oltre a esserci il museo di Medardo Rosso, museo allestito dal figlio, che appunto si può visitare quando uno passeggia da queste parti. Subito a Monte di Barzio ci sono delle bellissime vie di roccia su un calcare splendido, anche se un po' unto. Allora, partiamo subito con Cassin, dicendone due parole. Io qui ho messo solo, perché sennò avrei dovuto usare tre o quattro slide, ho messo solo le vie che lui ha fatto in Lombardia e sulle Dolomiti, che sono rappresentate con questo asterisco, e solo le prime ascensioni. Ne ha fatte anche molte altre sugli occidentali, nonché all'estero, cioè fuori dall'Italia. Beh, Cassin è un personaggio assolutamente mitico, è uno degli alpinisti più forti del secolo scorso. Qui lo vedete sulla via che lui ha aperto a 28 anni, sulla nord del Badile, che ha ripetuto quando di anni ne aveva 70. Questo dice abbastanza tutto. È morto nel 2009, quindi abbastanza recentemente. È una vera, un vero mito, e quello che vi posso sottolineare qua è che ha scalato anche con Emilio Comici, che ritroveremo dopo. Il Petit Trou l'ha salito a 25 anni, è qua il Petit Trou, è uno di quelli che sono c'è stata la tragedia del pilastro del Frenay a 31 anni, ma soprattutto due cose il fatto che a 35 anni, senza dire niente a nessuno, attacca la parete nord del Cervino in inverno, senza dire niente a nessuno, se ne accorgono dopo perché lo vedono lassù col binocolo, lui sale e a un certo punto non riesce più ad andare avanti. Non riesce più ad andare avanti e si inventa una cosa incredibile, cioè fa un nodo a palla con la corda e lo lancia più volte alla cieca, sperando che si incastri da qualche parte. Finalmente si incastra in una fessura, lui si fida di questo appiglio sicuramente non molto sicuro, e riesce ad arrivare sulla cima del Cervino a 35 anni. Dopodiché lui dice basta, l'alpinismo estremo per me è finito, mi metto a fare delle altre cose. Il Cervino l'ha raggiunto nel 65, interessante anche questa cosa. Lui arriva sul Cervino nel 65 e smette di fare l'alpinista estremo, cioè di salire la prima volta le grandi pareti, e comincia a fare l'esploratore e il reporter. Si porta in giro una macchina fotografica che sarà stato mezzo metro cubo, se la porta in Patagonia, nelle steppe, nelle tundre, nelle giungle. Nessuno crede che lui riesca a fare le fotografie da solo, perché lui dice: io vado in questi posti dove non è mai stato nessuno da solo. Nessuno ci crede, perché faceva delle foto bellissime, poi c'era anche dei reportage, penso, per epoca. Lui ha dovuto dimostrare che faceva le foto portando questa macchina in un posto dove invece c'era tanta gente, e facendo vedere che con una specie di cavo comando lungo 20 o 30 metri lui riusciva a far scattare la macchina fotografica, che era appunto a quella distanza, e a prendere le foto di quello che stava facendo. Non so come abbia fatto a farlo durante il famoso tuffo nell'acqua con i coccodrilli. Questo non lo so, perché non si vede il cavo, ma ci credo. Io a Bonatti credo su tutto. L'altra cosa che è da citare, secondo me, di Bonatti è la storia d'amore con Rossana Podestà. Una cosa bellissima. sono quelle cose che fanno pensare che il caso non è casuale, ma fa quello che gli permettiamo di fare. Tutti e due erano sposati, Rosanna Podestà divorzia nel 76 e Bonatti divorzia nel 79. A un certo punto chiedono a Rosanna Podestà in un'intervista, che era un'attrice, le persone che hanno una certa età ricordano bene, chiedono a Rosanna Podestà con chi vorrebbe andare su un'isola deserta. La classica domanda del giornalista un po' rincoglionito, e lei dice: ma se dovessi proprio andare su un'isola deserta vorrei andarci con Walter Bonatti. Walter Bonatti sente questa intervista, manda una lettera a Rosanna Podestà e le dice: incontriamoci. Lei le risponde: ci vediamo all'Araceli a Roma il giorno tal dei tali alle ore tal dei tali. Rosanna Podestà arriva all'Araceli, aspetta Bonatti, aspetta non un'ora, non un'ora e mezza, aspetta due ore, altro che isola deserta. Questo voleva dire che, insomma, ci teneva abbastanza a questo incontro, e alla fine scopre che lui è all'Ara Pacis. Non si sa bene come, perché allora non c'erano i cellulari, ma alla fine si incontrano, non so se a metà di qua o di là, e lei lo apostrofa dicendo: ma che razza di esploratore sei, se non riesci neanche a trovare un posto a Roma. Sta di fatto che da quel momento, era l'81, stanno assieme per 30 anni. Ed la loro è una delle più belle storie d'amore che si possano raccontare. Tra l'altro, chiudiamola qua e passiamo alla prossima slide, che è quella su, qui c'è un po' di confusione, sì, di Antonia Pozzi. Ah, quindi tocca a me. Antonia Pozzi. Antonia Pozzi, il collegamento, mi state sabotando, stiamo boicottando. Mi state boicottando. Ok. Acqua alpina. Gioia di cantare come te, torrente, gioia di ridere sentendo nella bocca i denti bianchi come il tuo greto, gioia d'essere nata soltanto in un mattino di sole tra le viole di un pascolo, d'aver scordato la notte e il morso dei ghiacci. Antonia Pozzi. Allora, è incredibile che in soli 26 anni, perché è morta 26 anni, abbia potuto lasciare una traccia come quella che ha lasciato lei nella poesia del Novecento. Poco fa parlavamo del fatto che ancora oggi c'è qualcuno che scrive dei libri su Antonia Pozzi, se ce ne fosse bisogno, se ci fosse bisogno di scrivere dei libri oltre a leggere le sue poesie e le sue lettere, che sono altrettanto belli. Non vi parlo della sua storia, che è triste, della sua fine tragica. Tra l'altro, proprio facendo un altro collegamento, proprio mentre scrivevo questi appunti, da un libro che ho appena finito di leggere si dice: un poeta è un essere umano che precipita nell'abisso della verità. Ecco, lei è precipitata nell'abisso della verità a 26 anni. Quindi l'unica cosa possibile è leggere le sue poesie. Confidare. Ho tanta fede in te, mi sembra che saprei aspettare la tua voce in silenzio per secoli di oscurità. Tu sai tutti i segreti come il sole, potresti far fiorire i gerani e la zagara selvaggia sul fondo delle cave di pietra delle prigioni leggendarie. Ho tanta fede in te, son quieta come l'arabo avvolto nel barracano bianco che ascolta Dio maturargli l'orzo intorno alla casa. Ecco, non ho detto due cose, me le sono dimenticate. Primo, perché ho parlato di Bonatti, perché Bonatti ha cominciato ad arrampicare in grigna, altro collegamento. Lui era, tra l'altro, era un cittadino, era un bergamasco, quindi un uomo di pianura, ma mentre lavorava alla Falck ha cominciato ad arrampicare in grigna e poi ha arrampicato tutta la vita. L'altra cosa che forse ho dimenticato di dire, è, ma non ve la dico adesso, è che se avete, dopo aver letto tutte le poesie, tutte le lettere di Antonia Pozzi, avete voglia di fare un pellegrinaggio oltre a Pasturo, andate a Zelata, che è una piccola località vicino a Bereguardo, dove lei andava a passare le vacanze nella tenuta della nonna. Si vede questa tenuta, c'è la targa di Antonia Pozzi. La cosa bella è che lì attorno si mangia benissimo dappertutto, quindi potete approfittarne. Brezza. Mi ritrovo nell'aria che si leva puntuale al meriggio e volge foglie e rami alla montagna. Potessero così sollevarsi i miei pensieri un poco ogni giorno. Non credessi mai spenti gli aneliti nel mio cuore. Grazie, Laura. Altro collegamento alpinistico-poetico, Emilio Comici. Perché Emilio Comici? Perché a un certo punto le vite di Emilio Comici e di Antonia Pozzi si intersecano. Lui faceva il maestro di sci e la guida sulle Dolomiti, lei va sulle Dolomiti per una vacanza e dà la possibilità di conoscere Comici e di passare del tempo con lui sciando e arrampicando, e gli dedica anche alcune poesie. Al di là di questo, Comici è un altro personaggio mitologico, ancora più mitologico perché lui muore a praticamente 39 anni, se faccio bene i conti, in modo banale, praticamente un errore, mentre un errore o un incidente mentre arrampicava, quindi muore estremamente giovane dopo aver fatto cose che a quel tempo erano veramente fuori dalla grazia di Dio. È stato anche, come vi facevo vedere, compagno di cordata di Cassin, di cui allora era coetaneo, poi chiaro dopo morto non lo si può più dire che fosse coetaneo. Ha fatto delle cose veramente incredibili. E passiamo a Medardo Rosso, il cui collegamento è il paese di Barzio. Medardo Rosso è definito come uno scultore impressionista. È morto a 70 anni ed è seppellito nel cimitero monumentale di Milano. A me la sua tomba è sfuggita, ma penso che sia da vedere. Tu l'hai vista sicuramente. E com'è? Bella. Bella. Consigliata. Consigliata. Fatta da solo. No, non lo so. Non lo so. Fede, tu sai chi l'ha fatta? No. Consigliata così come la visita al museo di Barzio, dove ci sono queste sue sculture appunto impressioniste, ma io direi anche minimaliste, perché lui non penso che abbia mai scolpito, era anche un bravissimo disegnatore, ma non penso che abbia mai scolpito delle cose più grandi di, non so, della grandezza naturale, dei busti, qualcosa del genere. Non ha fatto sculture di grande dimensione. E la sua caratteristica è l'incompiutezza, direi. Tant'è vero che lui dice: «Ce qui importe pour moi en art, c'est de faire oublier la matière». Ancora un po' e appunto la materia la faceva sparire. Conosciuto soprattutto come lo scultore dei bambini, a me alcune sue cose ricordano la Pietà Rondanini, che era effettivamente un'incompiuta di Michelangelo. Queste invece non sono incompiute, sono le cose così come le voleva fare Medardo Rosso. E pensando a Medardo Rosso, a me è venuto in mente quest'altro personaggio, che è Auguste Rodin. Perché? Perché i due si sono, mi faccio le domande e mi do le risposte come rigomentarla, una cosa disgustosa, abbiate pazienza. Ma mi è venuto in mente perché si incontrano a Parigi e Auguste Rodin, che era uno scultore verista allora, dice meraviglie di Medardo Rosso quando Medardo Rosso fa la sua prima mostra a Parigi. Dopodiché Auguste Rodin dice: ma come, lui dice di essere impressionista? Aspetta un attimo, che l'impressionista vero sono io, il primo scultore impressionista sono io. comincia a scolpire sculture impressioniste e quindi litiga con Medardo Rosso. Qui la connessione è una connessione appunto di, dovuta a un litigio. Tra l'altro, vabbè, se io dovessi esprimere un giudizio estetico, dico che queste due sculture, soprattutto questa che è un, cioè, un inno all'eros, alla passione, sono bellissime, ma io sto sicuramente dalla parte di Medardo Rosso, essendo lui italiano e io ancora un pizzico nazionalista. E quindi vi dico che Auguste Rodin è morto in un ospedale psichiatrico. Non so se ripeteva continuamente il primo impressionista sono io, il primo impressionista sono io, ma sta di fatto che lui è morto in un ospedale psichiatrico. Queste due sculture, questa qua sarà alta 2,5 metri, penso, quindi è una cosa veramente proprio l'opposto di quello che faceva Medardo Rosso. Non poteva mancare una connessione con la pittura, abbiamo parlato di scultura, ma ci vuole per forza anche una connessione con la pittura e nella zona, anche se non precisamente lì, ma nella zona il pittore più rappresentativo è sicuramente Giovanni Segantini. Giovanni Segantini, che tra l'altro ha talmente dedicato la sua vita in montagna che ci è morto. È morto in montagna mentre dipingeva, perché lui prendeva il cavalletto, i pennelli e tutta la sua attrezzatura e andava via, era capace di star via un giorno o due giorni perché magari dormiva in una malga, e solo che mentre andava via, anzi forse anche prima, ma lui è andato via lo stesso, ha avuto un attacco di peritonite ed è morto. È un pittore visionista, che è un movimento precursore del puntinismo o pointillisme in francese, che così propugna la separazione dei colori in punti o linee. Ha cominciato anche lui un percorso come verista, poi è finito sempre con questa sua tecnica nel simbolismo, e a me in particolare piacciono queste due. Le altre cose le trovo veramente stupende, però insomma sono un po', come dire, un po' bovine. Sì, la montagna è rappresentata in modo sublime, però sì, c'è la pastorella, c'è la pecorella, c'è il bue, tutto bellissimo, ma queste due che fanno parte del trittico, non mi ricordo più come si chiama, ma lei lo sa sicuramente, poi ve lo dice o ve lo dice adesso. Non lo so. Non lo sa, va bene. Ma sono simboliste e si chiamano Le cattive madri e Il castigo delle lussuriose. Ma non è che io sia particolarmente misogino e abbia voluto scegliere proprio queste due, ma queste due le ho scelte perché c'è questo concetto di immensità su cui torneremo anche dopo. E se qualcuno ha voglia di leggere qualcosa su Segantini, c'è un bellissimo libro che si chiama Il cercatore di luce, che ne narra la storia, perché lui ha avuto una vita particolarmente travagliata. È passato dal Trentino a Milano, poi è stato anche in riformatorio a Milano, è scappato. Alla fine è approdato in Engadina e da lì non si è più mosso e ha fatto appunto queste cose meravigliose. Teniamo in mente il concetto di immensità che ci ispirano queste immagini. Qui volevo suggerirvi degli altri itinerari. Non sono itinerari alpinistici, per me sono stati degli itinerari ciclistici, ma ci sono questi villaggi che io ho segnato, che sono Coiro Monte, Vabbè, il Mottarone è tristemente famoso per altre cose, ma vale la pena comunque di essere visitato. Ma Coiro Monte, Rimella, San Gottardo e Campello Monti, che sono villaggi lontani da tutto, non sono abbandonati, sono villaggi anche abbastanza vivaci, anche lì si mangia molto bene tra l'altro, ma vale la pena di visitarli, sono tra il lago di Como e la Valsesia. Lago Maggiore e la Valsesia, passando per il lago d'Orta, Tolino d'Orta, poi vediamo perché. E non è necessario andarci in bicicletta, ci si può andare tranquillamente in macchina. La strada finisce a Campello Monti e finisce anche a San Gottardo. Da Rimella si va a San Gottardo salendo da Varallo Sesia, ecco. Comunque la strada lì finisce, non si può sbagliare. Tutto questo per arrivare a questo signore qua. Questo signore qua è un poeta, giornalista, morto di cirrosi epatica, tra l'altro, questo la dice lunga anche sulle sue abitudini, diciamo così, anarchico o anarcoide, che ha scritto delle poesie che sono veramente che fanno veramente sbellicare. Ho scelto questa qua perché è abbastanza corta e per me è una specie di manifesto al mio mestiere, che si chiama appunto questa poesia, questo io fo buchi nella sabbia, come sostanzialmente faccio io, e, però se vi capita leggete o ascoltate anche nella lettura di Gassman le altre poesie, che sono dei veri piccoli capolavori di assurdità, di scapigliatura, che sono De Africa, Elegia del verme solitario, assolutamente consigliata, e Il teorema di Pitagora, tutte spassosissime. Questa invece la sentiamo. Se ne vedono per il mondo che sono osti, cavadenti, boia, eccetera, o secondo le fortune grandorienti. C'è chi taglia e cuce brache, chi leoni addestra in gabbia, chi va in cerca di lumache. Io fo buchi nella sabbia. I poeti anime elette riman laudi e piagnistei per l'amore di Giuliette, di cui mai sono i Romei. I fedeli questurini mettono argini alla rabbia dei colpevoli assassini. Io fo buchi nella sabbia. Sento intorno sussurrarmi che ci sono altri mestieri. Bravi, a voi, scolpite marmi, combattete il beriberi, allevate ostriche a chioggia, filugelli in cadenabbia, fabbricate il parapioggia. Io fo buchi nella sabbia, o cogliete la cicoria. E gli allori, a voi, Dio abbia, tutti quanti in pace e in gloria, io fo buchi nella sabbia. Ok, allora, in questa rassegna un po' tortuosa, che voi alla fine giudicherete, spero in modo così, abbastanza indulgente, non poteva mancare la musica. Musica sulla montagna non è che ce ne sia moltissima, a dire la verità. A me è venuta in mente questa. Musica di Alfredo Catalani. Ne sentiamo un pezzo e poi magari la lasciamo in sottofondo. Lì è ambientata in un villaggio austriaco, ma nella maggior parte degli album si vede una foto del Cervino, non si sa bene perché, ma comunque è ambientata in montagna. Sostanzialmente quello. E come i quadri di Segantini, a me fa venire in mente l'immensità, questo brano soprattutto, il lamento di Vallì, che si esilia in montagna, fra la neve bianca e le nubi d'oro. Per cui se è possibile, sì, anzi è possibile perché questo lo comando io, tu comandi quello, passiamo a queste immagini, perché a me le montagne fanno questo effetto. Da lontano sembrano tutte raggiungibili. Cosa ci vuole arrivare là? È un attimo. E invece quando ci sei in mezzo sono incommensurabili. Cioè, ti senti veramente un verme. E arrivare in cima sembra impossibile. E mi fanno tutte questo effetto, ma soprattutto i ghiacciai mi danno questa idea di estrema immensità. Questo è il ghiacciaio dell'Aletsch, fotografato dallo Jungfrau, tanto per darvi un'idea, questa larghezza è dell'ordine del chilometro. Un chilometro vuol dire, a livello di un'autostrada, è 50 metri. È una decina d'anni fa, direi. Sì, si è ritirato, ma le vediamo di più recenti, dove anche se si è ritirato sono talmente immensi che non ce ne si accorge. Questa qua è la cima del Bianco all'alba, verso est, evidentemente perché là sta salendo il sole, e questa è ancora più incredibile perché questa qua è dalla cima del Bianco verso ovest. Quella che vedete qui è l'ombra del Bianco proiettata sulle nebbie dell'Alvernia, penso che quella sia la regione dell'Alvernia, sì, sulla Francia. Cioè, il Bianco è talmente immenso che proietta la sua ombra a chilometri e chilometri di distanza. Questo qui invece è il Glacier Blanc, preso dalla Barre des Écrins, anche questo evidentemente all'alba. Vedete, qua si vedono delle moschine, dei puntini. Ecco, questi sono gli omini che risalgono il ghiacciaio. Anche questo è un ghiacciaio di un chilometro di larghezza circa, ed è una foto di quest'estate, di luglio. Torno indietro, no, non si vede. Questo qui è un ghiacciaio dal nome impronunciabile, comunque questi sono i Fischhorn, il Gross, l'Inter e il Klein Fischhorn. Anche questo è un ghiacciaio talmente grande, un chilometro di larghezza, questo penso che sia un anno fa, in questo periodo più o meno. Questo qui forse lo riconoscete dalla chioma leonina, è talmente grande che ci abbiamo trovato quelli che facevano kitesurf con gli sci, cioè con la vela andavano da una parte all'altra del ghiacciaio a fare surf. E questo qui invece è un ghiacciaio che si chiama Holaub, tra il Rindfischhorn e il Laginhorn. Il ghiacciaio è un po' più piccolo, ma comunque, come vedete, abbastanza ancora in salute. Visto che Catalani è finito, vi parlo un po' di Franz Liszt. Anzi, non vi parlo di Franz Liszt, facciamo partire la musica, vi parlo del mio rapporto con questa musica, perché magari anticipo una domanda che mi faceva Laura, io se fossi in lei me l'avrei fatta, cioè avrei detto, ma da che cosa nasce questo tuo amore per la montagna? L'avresti fatta. Ecco, vedi che ti ho. Tu non hai voluto dirmi quali sono le tue domande, ma io ci ho pensato. Ma questa qui ve l'avrei fatto vedere lo stesso, anche se Laura non mi avesse mai fatto delle domande. Perché? Perché questa musica di Liszt, Le Prelude, era la, come si dice, la sigla iniziale di un programma per ragazzi che si chiamava Almanacco, che è stato in onda dal 1963 al 1968, cioè fino a che io ho avuto 9 anni praticamente, forse ve lo ricordate anche voi, voi sicuramente no, ma forse voi sì. Allora, nella sigla iniziale di questo programma, la cui dichiarazione di intenti era essere un programma di scienza, storia, costume, privilegiando quei temi che, attenzione, possono servire meglio a dare il senso dell'avventura umana sulla Terra. È un tipico programma di adesso. Ok? E io me lo ricordo perché ero lì con due occhi così, ma soprattutto nella sigla di apertura c'era questa musica che adesso sentirete, che ci accompagnerà ancora per un po', dove assieme alla musica, alza un po', scusa, perché questa è la parte direi romantica, eroica di questo pezzo. Proprio quando partiva questo pezzo si vedevano compagnoni e lacedelli che arrivavano sulla cima del K2, un brevissimo filmato. E io ero lì che guardavo, 9 anni, e dicevo, ma riuscirò mai a fare una roba del genere? Ecco, la risposta è stata no, non ci riuscirò mai, ma ho dovuto aspettare almeno 20 anni per rendermene conto che non sarei mai arrivato sul K2, ma in qualche modo sarei arrivato ad amare la montagna. Continua pure, torniamo indietro alla pittura, perché anche se Caspar Friedrich è sicuramente quello che ha meno a che fare con tutto quello che abbiamo detto finora, mi è venuto in mente perché è un pittore romantico, e come tutti i romantici, quando vedeva una roccia un po' strana, per lui diventava un simbolo della natura, benigna o maligna, per lui soprattutto direi maligna, ma questo personaggio che guarda attraverso le nebbie e le montagne è una delle immagini secondo me più rappresentative dello spirito romantico, che è collegato anche alla musica che stiamo sentendo qua sotto. Come è morto questo signore? Liszt non deve aver fatto una gran bella fine. Non ce l'ho scritto. Friedrich invece sono sicuro che non ha fatto una bella fine. Perché deve essere anche lui morto in ospedale psichiatrico, cosa volete che sia, è abbastanza comune per questi artisti. E è famoso non solo per quel quadro, ma anche per questo, e questo è Il mare di ghiaccio, assolutamente drammatico, ma ha a che fare con la sua storia personale, perché suo fratello, di poco più grande di lui, quando lui aveva 13 anni, mentre pattinavano sul ghiaccio, Caspar è caduto nel lago ghiacciato, suo fratello si è buttato nel lago ghiacciato per salvarlo, Caspar si è salvato, il fratello è morto. Siamo quasi alla fine e direi che questa è l'analogia nelle analogie. Non è che l'idea di chiamarla montagna analoga mi sia venuta per una brillante ispirazione, no, è venuta soprattutto perché ho letto, avevo letto questo libro che penso sia il libro consigliato, libro di lettura consigliato per la... Facci la... fare qualcosa però. Come? Facci fare qualcosa. Adesso. Questo René Dumas, anche lui morto estremamente giovane, quanti anni aveva? 36? Se non sbaglio, sì, 36. È come James Dean, Marilyn Monroe, Jimi Hendrix e tanti altri che sono morti lasciando le cose incomplete, anche lui è diventato un mito. Lui era, non era un alpinista, era soprattutto un filosofo e un poeta. Le sue poesie sono, al di là, al contrario di quelle di Pozzi, di Antonia Pozzi e di Regazzoni d'Orta, sono praticamente illeggibili secondo me, ma comunque ha fatto anche il poeta. Ma oltre a scrivere Il Monte Analogo, ha scritto anche degli altri libri di tipo filosofico che tradiscono un po' il filo rosso della sua filosofia, che è la conoscenza di sé e il lavoro su di sé. Sono due titoli dei suoi libri. Sta arrivando, è il pezzo forte di Liszt. Questa è la... è evidentemente una bufera di montagna, sentite, no? Il vento che soffia. Perché il Monte Analogo è così importante? Io direi anche per l'alpinismo, perché se uno legge il Monte Analogo si diverte anche per alcuni dettagli alpinistici, come quello spassosissimo di questa masnada, di questa corsaia di... tu l'hai già letto? Di questa cozzaglia raccogliticcia di persone che decidono di fare questa spedizione sul Monte Analogo, che per raggiungere il loro luogo d'appuntamento, che si trova in un appartamento, non mi ricordo più a che piano di Parigi, invece di salire per le scale devono arrampicarsi per i muri esterni, perché altrimenti non avrebbero superato una specie di battesimo del fuoco. Ma la cosa bella è che il Monte Analogo è, secondo Dumas, un monte che deve essere reale, esistere, che deve essere accessibile alle sue pendici, ma di cui non deve essere possibile raggiungere la vetta. Perché è l'epitome, è il simbolo più che dell'ascesa, dell'ascesi, cioè del cammino che si fa anche su di sé per raggiungere un obiettivo, che è quello non di arrivare alla vetta, ma di arrivare a un migliore grado di consapevolezza e di conoscenza. Questa incompiutezza è stata sottolineata dal fatto che lui è morto senza poter scrivere gli ultimi capitoli del libro, e in una lettera a un suo amico, in cui gli spiegava qual era un po' la traccia del libro, l'ultimo capitolo doveva avere titolo "E voi che cosa cercate?". Secondo me queste così, definizioni dei contenuti del libro, secondo me è bene che, tanto ormai siamo veramente agli sgoccioli, se abbiamo tempo, che le leggiamo, perché sono veramente interessanti. Allora, il libro sostanzialmente, nel libro c'è la ricerca spirituale e la scoperta di sé, cioè la montagna funge da metafora per il viaggio individuale verso la conoscenza di sé, l'illuminazione spirituale e la realizzazione del proprio potenziale. L'inaccessibilità della verità assoluta. Questo è un dato di fatto. Noi la verità assoluta non è accessibile razionalmente, e la montagna, questa montagna irraggiungibile, ne è un po' appunto un esempio. Le verità ultime non sono immediatamente evidenti, ma chiedono uno sforzo dedicato, cioè come se le verità ultime avessero bisogno di un'intelligenza diversa da quella razionale per essere raggiunte. Questo lo saltiamo, ma questo invece ci restiamo. I limiti della conoscenza convenzionale. Necessità di avventure simbolicamente autentiche che sottolineano l'idea che gli approcci convenzionali e razionali possono essere insufficienti per esplorare determinate realtà, le realtà ultime ad esempio, o raggiungere una comprensione superiore. È un po' quello che diceva Saint-Exupéry, che diceva che l'essenziale è invisibile agli occhi, cioè non si può raggiungere con un organo fisico, che siano gli occhi o il cervello, o anche quello che scriveva Montale nella famosa poesia Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale, che dice alla fine le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Quindi limiti della conoscenza convenzionale. E poi, dulcis in fundo, il valore dello sforzo e della sofferenza. Quindi smetti di fumare, oppure anche se fumi, assumiti le tue responsabilità e arriva dove riesci ad arrivare con le tue forze, sforzandoti. Tra l'altro, piccolo ricordo, eravamo appena arrivati su una cima e sbucando dalla parete c'era lì una signora che dice: ah, che bravi, siete venuti su di qua. Ah, sapete, io sono venuto su dall'altra parte. E il mio compagno le ha detto: signora, non ha importanza come lei è arrivata qui. Se lei ha fatto la fatica sufficiente per arrivare qui, lei ha fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Noi l'abbiamo fatta da questa parte, lei l'ha fatta dall'altra, ma ci ha messo tutta se stessa. Tra l'altro, e poi chiudo veramente, anzi guardate, vi do il Bergheil, che è il saluto nei paesi germanici quando si arriva sulla cima, se c'è qualcuno da salutare chiaramente. Dicendo che il Monte Everest ha rischiato di essere come il monte analogo, cioè se fosse stato più alto di qualche centinaio di metri saremmo ancora qui a dire che il Monte Everest è irraggiungibile, quindi lo conosceremmo, sapremmo perfettamente come è fatto alla base, ma nessuno sarebbe ancora riuscito ad arrivarci, invece essendo alto soltanto 8.850 metri sono arrivati nel 1953-54. Se fosse stato 300 metri più alto sarebbe come il monte analogo, quindi Domal non aveva neanche avuto un'ispirazione troppo scorrente. Quindi Bergai. Spiega un attimo perché. Berg, montagna. Heil e viva. Heil, Hitler, ad esempio. Viva Hitler. Berg, Heil. Viva la montagna. Viva la montagna. Viva la montagna. Viva la montagna. Io sono milanista. Come? Tu sei milanista? Quindi? No. Adesso Hitler, non Inter. Allora sei proprio distorta. Allora, lo spoiler l'ha già fatto ed è, vabbè, tutto uno spoiler gigante, quindi invitiamo a leggere questo libro se vi può interessare. Tu che l'hai letto. Tu hai già detto abbastanza. Io ti ho detto tutto. È bello? No, è un libro molto interessante, ci sono delle parti un po' misogine. Possiamo strappare le pagine. Però è interessante perché penso che rifletta molto su, appunto, anche l'ultima domanda che c'era citata nelle slide, quindi sul senso del perché si va in montagna e che cosa si cerca quando si decide di fare questo tipo di percorso antifisico, ovviamente di fatica. È anche una, cioè, come dire, scritto in una maniera molto leggibile, molto facile e molto romanzata, quindi divertente. Sì, lo consiglio. Questo è il passeggio sociale di ottobre, sarà una zona molto tranquilla, accessibile a tutti e a tutte, e in cui si potrà anche però sperimentare un po' di arrampicata, attrezzatura permettendo individuale, qualcosa può essere messo a disposizione, cose base divertenti, in cui secondo me si mangia bene dappertutto, anche lì c'è anche un bel bar, una birreria. Stiamo iniziando a fare i weekend, quindi volendo si può allacciare il sabato o arrivare solo la domenica. Quello è Domal, che compare selvaggio, quello è il suo libro, che compare selvaggio anche lui. E invece questi sono i prossimi appuntamenti di Montagna Analoga. Se è mancato un po' l'aspetto politico in questa presentazione, ce lo mette Beatrice il 19 ottobre, quindi siateci, se vi interessa anche un aspetto un po' più politico-sociale. E il 16 novembre invece abbiamo un altro appassionato di alpinismo, e il 14 dicembre non lo sappiamo anche noi, ma ci stiamo lavorando, e un po' di sorpresa fa sempre bene a tutti. La prossima del passeggio invece è già a settembre, fine settembre, ed è in Valgoglio, dove ci sarà una cena nottata in tenda di chiusura della Baita Cernello, che è nella zona dei Cinque Laghi, sopra Bergamo, nelle valli delle Robe Bergamasche, e offrono a offerta libera una cena e una colazione e un panino per il giro del giorno dopo. Si raggiunge in 3 orette dal parcheggio sotto, e poi si può fare un giro dei laghi o anche solo arrivare alla baita e godersi il pranzo la domenica. Per chi vuole si può mettere la tenda, ci hanno già dato l'ok. Per un posto in baita bisogna chiamare, ma è piccolina. E invece il 29 e 30 novembre non lo sappiamo ancora, dicembre neanche, abbiamo un po' di opzioni tra cascine più in bassa quota per evitare magari tempi atmosferici novembrini e dicembrini. E gite artistiche, una gita artistica, una gita culinaria o di cascina, insomma, produttiva, cose del genere. E poi anche a gennaio, cioè non è che a dicembre scompariamo nel nulla, vi lasciamo nei vostri weekend milanesi, ma possiamo continuare a divertirci anche da gennaio in poi. Non c'è più niente da dire, quindi possiamo magari... No, magari se qualcuno ha qualche domanda per Enrico, io ne ho una. Non è quella. Però mi siedo. Se qualcuno ha una domanda. Beh, no, volevo solo mettere la copertina che fa la sua scena. Ecco, questo qua è una copertina del Monte Analogo. Credo. Loro per arrivare al Monte Analogo fanno un percorso in barca. Quindi c'è anche tutta un po' una storia di questo. una domanda? Perché dici che se grazie. Il Monte Everest fosse qualche centinaio di metri più alto non l'avremmo ancora scalato? Perché il campo, non so che numero, ma quello che ha il Colle Sud, che è la via più facile, penso che sia a 800 metri dalla cima. A quelle quote lì, se fosse 300 metri più alto, dovrebbero fare 1100 metri partendo da 8000 per arrivare a 9100. Non c'è una bombola di ossigeno che riesce a portare per tutto quel tempo, e di sopra degli 8850 è il mistero fisiologico, cioè non c'è mai arrivato nessuno senza ossigeno. Già quelli che cercano... A che altitudine si mette l'ossigeno obbligatorio? Non è obbligatorio, perché ci sono ormai diverse persone che ci sono arrivate senza ossigeno. Non tutte sono tornate indietro, ma la maggior parte sì. Sono arrivate lì, tra l'altro, su una via che tutto sommato è una via abbastanza semplice. Se fosse 5000 metri più bassa sarebbe una camminatona. Ecco, e non si può piantare un campo intermedio un po' più su. Forse si potrebbe, però sarebbe un campo estremamente, estremamente scomodo su questa cresta, e quindi è tutto un se e un ma, però è così. Si conquista tutto, sono conquistati gli abissi, cioè, vuol dire, anche se ci fosse una montagna più alta dell'Everest. Tra l'altro, esiste una montagna più alta dell'Everest, che non è il monte analogo. Perché c'è una montagna in Messico che, essendo più vicina all'equatore, è più distante dal centro della Terra. Per cui, pur essendo 6000 metri di quota, più o meno di altezza, 6000, rispetto al centro della Terra, è più alta, ed è il Cimborazzo, che è a tutti gli effetti il punto più elevato della... Il livello del mare, cioè il centro della Terra. Esattamente. Il Cimborazzo è più alto dell'Everest. L'Everest cresce. L'Everest cresce ancora, sì. L'Everest ha modo di diventare, però se cresce con i ritmi attuali, sì, non lo vedremo alto 300 metri di più. Cioè, la crescita è infinitesimale o è percettibile? Allora, sulle Alpi, che con l'Himalaya c'entrano relativamente poco, ma vince l'erosione rispetto alla crescita. Le Alpi crescono ancora un po', di qualche millimetro all'anno, però l'erosione è più forte della crescita. E poi soprattutto quelle calotte che sono coperte di ghiaccio, come avete visto, come il bianco, se scende un po' il ghiaccio, loro scendono. Grazie. Mi tocca a me. Mi sorge questa domanda, nel senso che forse in parte hai risposto, però te lo chiedo, perché hai citato tante cose, quindi per esempio hai citato il romanticismo, hai citato Friedrich, e penso che ci sia anche un tema nel romanticismo, inteso in senso letterario, sulla una ricerca, diciamo, di equilibrio tra il caos, che è associato, diciamo, alla natura dell'uomo, ai suoi sentimenti, invece alla regola dell'immensità e della perfezione divina, no? O della religione, e piuttosto che appunto il monte analogo, anche se ne parla, di una ricerca di qualcosa che è oltre la natura umana. E quindi ti chiedo qual è il tuo, cioè il senso per te di andare in montagna, che cosa cerchi, e se magari se hai più di una risposta o se non ce l'hai, non lo so, però personalmente per te è quell'idea di immensità che c'è nelle fotografie che ci hai fatto vedere, che appunto si può ricollegare anche a questa visione artistica romantica o più spirituale o più naturale? O se, diciamo, nella tua esperienza, se anche magari questo sentimento è cambiato e quindi dal primo amore che hai avuto nel vedere l'almanacco pensando ce la farò mai a fare questa cima, o devo dire se è invece una sfida fisica, per esempio anche parte delle potenziali gite artistiche che proporremmo sono i Sacri Monti, che sono pensati proprio, no, per seguire la storia di Cristo, ma anche nell'ottica del cammino che fa fatica e sale e in qualche modo arriva sempre più vicino a una conoscenza di sé e della realtà maggiore, proprio perché attraversa la fatica della salita. Poi mi voglio influenzare la tua risposta, però... Ma questa è una di quelle domande a cui di solito l'intervistato risponde, permette, ottima domanda. Così prende un po' di tempo per pensare. No, non è una risposta. E non può dirlo, non può dirlo, ma lo pensa. Ma perché non mi hai detto che mi avresti fatto questa domanda, che mi sarei preparato? Perché preferisco che sia spontanea. Allora. Beh, innanzitutto partiamo dalle cose semplici. C'è l'aspetto fisico, che non è separato da quello psicologico o comunque, diciamo così, mentale, perché la fatica, soprattutto se ha un esito positivo, e poi magari ne parliamo un attimo di che cosa vuol dire esito positivo, perché non vuol sempre dire arrivare sul Serra Torre piuttosto che sul Monte Bianco o sull'Everest, ci sono degli aspetti positivi. Tornare a casa vivo. Esatto. No, tornare a casa vivo. Io lo chiedo tutte le volte che Giovanni porta la sera. Ma non peraltro, ma perché tornare a casa da morto è molto complicato. Secondo me è il pasto alla fine. È il pasto alla fine. La comunque, sicuramente l'aspetto fisico, quando... conduce a un esito positivo, conduce anche a uno scarico di se hai fatto una cosa difficile, uno scarico di adrenalina, ma ha una produzione di endorfine, per cui ti senti sollevato da terra, e più del pasto, che comunque ci vuole perché hai fame, è la birra. Vero, verissimo. Perché il collegamento tra endorfine, adrenalina e birra è micidiale. Cioè, cosa state a farvi delle robe così che potete trovare nei parchi di Milano? Andate a fare una passeggiata in montagna un po' impegnativa e poi dopo fatevi una birra e vedete che, ecco. Vero, posso confermare. Ok. Ma al di là di questa, di questo star bene, io ho esperienza diretta del fatto che a me vengono delle idee bellissime quando vado in montagna, a prescindere dal percorso, a parte il fatto che ormai, visto che i miei compagni storici, che da una parte ringrazio per la loro pazienza, tra l'altro io ne ho due di compagni storici, uno è qua e l'altra è a casa con un poppante, e ringrazio per la loro pazienza e spero che non abbiano dei ricordi troppo drammatici, ma visto che i miei compagni storici ormai mi snobbano, vado spesso in montagna da solo, non a fare le cose più difficili. Quindi unisco il fatto di essere da solo con il fatto di pensare da solo, cioè di non avere nessuno, a me dispiace, ma non ho nessuno con cui scambiare le idee. E forse è meglio così, perché le scambio con me stesso. E a differenza delle idee che ti vengono quando soffri di insonnia, che al mattino dopo ti sembra, cioè mentre le pensi dice che bellissime idee, ma il mattino dopo non te ne ricordi una, per cui a meno che tu non le scriva e a questo punto l'insonnia peggiora ancora, quindi è meglio non scriverle, ma il mattino dopo non te ne ricordi una. Invece quelle, quando vai in montagna, te le ricordi e puoi anche scriverle senza rischiare l'insonnia. E, beh, io penso che questi siano... Ho risposto? In parte? Sì? Sì, non c'è la risposta giusta. No. E poi... Poi sì, c'è la ricerca di sé e la conoscenza di sé, ma io direi che questo lo vedrei soprattutto con la conoscenza dei propri limiti, questo sì. Cioè, sia quando si è con gli altri che quando si è da soli, arrivare a un certo punto e dire io lì non ci vado, io questo non lo faccio. Anche questa è una bella lezione secondo me per la vita, perché nella vita di solito si dicono un po' troppi sì anche, cioè si accetta di fare un sacco di cose, invece lì in montagna non è tanto per la paura, ma è proprio per la coscienza del fatto che in quel posto lì tu non ci puoi più arrivare, un po' come ha fatto Bonatti a 35, ma pensate, a 35 anni, io sono qui che parlo di alpinismo a 66 anni, alpinismo, di montagna a 66 anni, a 35 anni lui ha detto basta, io quelle cose lì non posso più farle, 35 anni con la preparazione e il fisico che aveva, se non è consapevolezza questa. Grazie. Prego. Allora ti faccio altre due domande. Una è forse, cioè anzi una in due, cioè sono due in una, forse l'esperienza più bella e più brutta della montagna nell'ottica di dare a chi ascolta forse un'idea un po' concreta, pratica di quello che potenzialmente si può vivere, quindi magari intendo bella nel senso di cioè al di là di una realizzazione personale, invece magari anche un po' più pratica e brutta, non so se hai avuto delle esperienze difficili o fisicamente come hai gestito magari nel concreto, se ne hai avute delle situazioni complesse in montagna. Allora, di esperienze belle io ti direi la più bella è sempre l'ultima. Che è quella che ti resta più attaccata, magari se ci pensi ti viene in mente qualche particolare raggiungimento di un limite che non ti aspettavi neanche, quella ti sembra bella, ma l'ultima, anche se fosse la passeggiata che ho fatto 2 settimane fa, che è stata bellissima, quella mi è rimasta molto attaccata. Però devo dire che le cose che ricordo di più, i giorni sicuramente più felici, che mi hanno dato di più, sono stati quelli in cui siamo andati io e Giovanni o io e Ludovic. Quelli sono stati i giorni veramente più felici di tutti. Che sono i tuoi figli, per ricordare. Sì. Potevi anche alzare la mano e dire sono io. Abbiamo cominciato ad andare, ho cominciato a portarli in montagna quando erano piccoli, non mi ricordo più neanche quanti anni avevano, ma penso attorno dai 10 anni, 13. E a volte anche così, adesso Chiara è fuori per cui non mi sente, posso dirlo a bassa voce, a volte anche va bene, comunque sono stati i giorni più belli, via, ok, ci siamo spiegati, ecco. Allora, giorni più brutti, non sono, erano i giorni più brutti che mi hai chiesto? Sì, tutti, diciamo, giorni... se c'è stata un'esperienza difficile, come l'hai vestita, per dare un po' un'idea anche di cosa ci si può aspettare, cioè, invece del racconto idilliaco dell'essere in un bel posto, però sì, la montagna ha anche delle insidie. Sì, la montagna ha anche delle insidie. E, più che raccontarvi come ho gestito i momenti più critici, ce ne sono stati uno o due, direi che la caduta, se è trattenuta da una corda, non lo puoi neanche chiamare un momento brutto, perché non te ne rendi neanche conto. Quello di cui non ci si rende conto è che cadendo, anche se fossero 20 metri, non si fa neanche a tempo a pensarci, per cui l'importante è che ci sia la corda che ti tiene. Sì, però sei lì che penzoli e appunto... Sì. Qual è più psicologico invece la cosa? Cioè, per me è stato più... Non ti rendi conto quando arrivi a quel limite, per cui fisicamente magari sei distrutta o distrutto e non riesci ad andare avanti, diventa un peso psicologico più che... Cioè, magari alla fine del percorso ci arrivi, ma inizia ad avere proprio una... Sì, c'è una crisi di non capire dove sei, quando arriverai, di non capire che hai voglia di sederti e non muoverti più, come l'alpino durante la ritirata, sì, capita, sì, anche però questo. Se in cima alla montagna devi scendere. Non puoi farlo, cioè non puoi devi scendere, magari ti viene un sete da Madonna e non hai l'acqua, devi aspettare ad arrivare, sì. Mi è capitata una cosa non drammatica, da cui sono uscito perché sono qua, e qual è stata la mia reazione? Tirare degli accidenti il più ad alta voce possibile, un temporale, una calata che doveva portarmi alla fine della via, e invece si sono incrociate le corde non venivano più, quindi bisognava tornare su. E bisognava tornare su sotto la pioggia, con l'acqua che entrava dappertutto. Ma lì è un'esperienza che non vale neanche la pena di raccontare, perché dovrei usare dei termini che non si possono ripetere sostanzialmente. Ma l'esperienza più brutta è la perdita, sicuramente. Perché mi è capitato di salutare una persona con cui ho fatto una cosa meravigliosa e di dirgli ci vediamo la settimana prossima, e questo succedeva alla domenica, e al martedì lui era coricato in una bara. E la stessa cosa mi è capitata la settimana scorsa, anche con quest'altra persona abbiamo fatto una cosa molto simpatica, che è finita venerdì, e martedì era in una bara pure lui. C'è da metterlo in conto, soprattutto per le persone che frequentano la montagna tutti i giorni, non per uno come me. Direi che devono metterlo in conto soprattutto quelli che frequentano la montagna tutti i giorni in modo professionale o facendo dell'alpinismo estremo, oppure quelli che la frequentano. Tra l'altro c'è anche un blog che si chiama, non mi ricordo neanche più, ma con dei racconti gustosi, quelli che vanno in montagna una volta all'anno, mi sembra che si chiami il blog. Ecco, quelli lì, anche quelli devono metterli in conto, cioè chi va in montagna con le scarpe da barca, senza attrezzatura, senza una giacca a vento, questi qua devono mettere in conto che prima o poi non tornano a casa. Quelli che stanno qua in mezzo, i mediocri, diciamo, come mi considero io, rischiano decisamente meno. Però l'esperienza della perdita non è simpatica, nel senso che quando ho perso questo amico, per un anno almeno, ho avuto delle grosse remore a fare qualsiasi cosa che avesse a che fare con la montagna. Non ero con lui, tra l'altro non è stato neanche un incidente di montagna, lui stava facendo manutenzione all'illuminazione di un campanile. Quindi un banalissimo incidente, diciamo così, di lavoro. Lui faceva lavori in corda, quelli che adesso si chiamano lavori in corda, si è fidato di un cavo, è caduto e il campanile aveva una serie di una fascia con una serie di displuvi e lui è caduto su questi displuvi da un'altezza neanche eccessiva, una caduta che in qualsiasi altra situazione lo avrebbe fatto schizzare su come una molla, perché era fatto di ferro, era uno che era stato sul K2 tra l'altro, ma ha avuto un'emorragia interna e nel giro di 3 minuti è morto. E questa è una cosa che mi ha segnato, non è capitata a me, ma è come se mi fosse capitata, nel senso che mi ha dato l'impressione che anche se sono mediocre, cioè in quella fascia dove la percentuale degli incidenti, la probabilità di incidenti è sicuramente più bassa, ce l'hai sempre qua. Ho risposto? Sì. Grazie. Comunque la montagna è anche bella. Erano due. Non volevo chiudere con la nuvoletta nera. No. Sì, no, erano e basta, sei libero, è basta, okay, sei libero. Grazie. Anzi, grazie mille. Vuoi farti una domanda da solo? Giovanni, non vuoi fare una domanda al tuo papà? Io l'ho appena fatta. Ah. La domanda... No, era anche qualcun altro alle domande. Qualcun altro domande? Altrimenti siete libere, liberi di andare, ma ci vediamo tra un mese. Per chi vuole seguire questa rassegna con Beatrice, che ci parlerà delle Olimpiadi in qualche modo, giusto? In qualche modo. O a fine mese in Valdoglio. Questo esatto, settimana prossima comunque, Gio. Sì. Una domanda. Se la tua sensazione quando avevi sei in montagna di benessere presso è uguale a quando eri giovane rispetto adesso o è cambiato? È uguale. Questa è una di quelle domande in cui chi deve rispondere dice che bella domanda, ma non per tirare avanti il tempo, no, non è una bella domanda perché non è così, adesso è molto meglio, adesso è molto meglio ed è una delle cose che mi danno più fastidio è che la maggior parte delle volte quando arrivi in cima devi scappare indietro e mentre vai su la maggior parte delle volte non hai la possibilità che guardarti i piedi e hai pochissimo tempo per guardarti in giro, per cui alla fine uno dice ma sono venuto qua, è tutta sta roba, che tutto questo ben di Dio, non riesco a guardarlo quando salgo, quando scendo sono distrutto, in cima devo venire via subito, cosa sono venuto a fare? Questo una volta non lo pensavo, adesso lo penso e ci sto un po' più attento, quindi adesso devo dire che se andare in montagna serve per acquisire un po' di consapevolezza, un pochettino ne ho acquisita. Grazie a tutti, grazie a voi. Ed è una bellissima iniziativa la vostra, bellissima veramente.